Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Il mattino ha l'oro in bocca. Il buongiorno si vede dal mattino e ancora svegliati di buon mattino e desterai l'invidia del vicino. Insomma, la saggezza popolare sembra non avere dubbi, è al mattino che si gioca la partita. Ed è proprio su questa prima parte della giornata che si concentra la trasmissione di oggi. Concentratevi anche voi, fate mente locale, ripercorrete i gesti, le abitudini, i rituali che seguite, molti di noi quasi ad occhi chiusi, da quando suona la sveglia a quando vi infilate il cappotto per uscire. La sfida di oggi è ottimizzare i risultati, massima resa con minimo sforzo. E per una partenza da campioni andiamo a casa di un campione vero, Massimiliano Rosolino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, ben svegliato Massimiliano, allora pronto per il nostro test. Metti le cuffie. Suona la sveglia, apri l'occhio e... E mi faccio il segno della croce. No, apro l'occhio ovviamente, mi dico ahimè l'orologio si è sbagliato anche oggi. Ho anche la fortuna di svegliarmi 4 volte su 6 in teoria alle 9, perciò non è neanche una sveglia drammatica. Però è lunedì mattina, come oggi, purtroppo è successo alle 7:10. Ti butti sotto la doccia o scivoli dentro la vasca? Nessuno dei due, a stento mi lavo la faccia. Ne sono pure fiero perché calcolo da quando mi sveglio a quando devo poi entrare in acqua a farmi 2 ore di moto, come prima mezza giornata passeranno, non so, 50, al massimo un'ora, perciò ben venga soltanto la lavata di viso. La tua prima colazione inizia con... Ma io direi prima un bel bacio, ok? Anche se magari la mia compagna si sveglia spesso dopo di me, anche se dirà sempre il contrario, negherà sempre. Un bacio ci vuole. E poi una bella colazione ricca, perciò... le mie fette biscottate con la marmellata, il mio tostino con il prosciutto, un olio yogurtino e in alternativa altrimenti un succo di frutta. Musica, giornale, radio o silenzio? Radio. Musica un pochettino magari al mattino dalla televisione, appena entro in macchina, radio, tutto il giorno, che mi fa compagnia. Spazzolino manuale o elettrico? Rigorosamente manuale, ragazzi. Quello spazzolino purtroppo è per i pigri e secondo me non aiuta. È come, mi sembra un po' psicopatico, ma è come grattugiare quello elettrico, il parmigiano, il formaggio o usare quello a mano. È come, non so, il prosciutto tagliato a mano o quello fatto con la macchinetta. È tutta un'altra cosa. Il tuo motto per iniziare bene la giornata? Se ti svegli hai qualche dolore non ti lamentare, meglio 100 dolori che non sentire più niente. Ma non lo so, un rituale no, c'ho così tanti che ti guardi un po' allo specchio e dici mamma mia, un'altra ruga. Andiamo a scacciarla con un po' di moto. No, tendenzialmente non sono uno che si lamenta troppo la mattina, i primi 15 minuti sto in coma, poi mi riveglio subito. Grazie Massimiliano Rosolino. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Si fonde con i suoni di questa città, che è sempre fretta e non ha tempo per godersi tutta questa meraviglia. Il suono dei tuoi passi delicato come un fiore per non farmi svegliare. Il riflesso nei tuoi occhi quando poi ti accorgi che faccio finta di dormire. La gioia del risveglio. E adesso torniamo a casa nostra, c'è chi si butta giù subito, mette subito il piede giù dal letto, chi si gira dall'altra parte, ma cari amici è tempo di uscire dalle lenzuola, ma anche di imparare a sfruttare questo momento. Ci aiuta Anna Maria Cova, fisioterapista e fondatrice della Cova Tech Pilates School. Anna Maria, bentornata. Bentornati a voi, buongiorno a tutti. È dura, soprattutto quando fuori è ancora buio, scendere dal letto e affrontare la giornata. Sì, capita. E poi, come dicevi tu, ci sono delle tipologie differenti. Ci sono persone, si sente già da come parlo, io come sento la sveglia sono già in piedi e mi fa sorridere a volte quando sono in giro per lavoro che magari mi ritrovo persone accanto o il marito e si osservano le tipologie proprio differenti della maniera di alzarsi. C'è chi continua a rigirarsi nel letto e perché non ottimizzare questi momenti con dei sani approcci col proprio corpo? Che ne dici? Io sono assolutamente d'accordo. Oggi noi ci concentriamo proprio su questo, ottimizzare i tempi aggiungendo o togliendo qualche cosa. Allora, vediamo una tipologia modello tutti in piedi sull'attenti. Che cosa succede? Suona la sveglia e immediatamente la persona è già seduta. Grazie al cielo c'è ancora un qualche cosa che trattiene ad alzarsi di scatto. Allora, approfittiamo da seduti. Con che cosa? Con un lavoro di percezione di quello che sono gli appoggi dei piedi. Perché? Perché alzarsi di scatto dopo che il corpo è rimasto disteso, che la colonna vertebrale finalmente si è distesa, è una follia. Perché? Perché si va a creare quello che potrebbe essere la frase alzarsi col piede sbagliato, per cui appoggiamo i piedi. Sentiamo l'appoggio del sedere, quindi li abbiamo già detti, gli ischi sul materasso, ci incliniamo in avanti e guardiamo questi poveri piedi che ci dovranno tenere in piedi tutto il giorno. Che cosa facciamo? Apriamo le dita dei piedi, appoggiamo bene il tallone e per alzarci incliniamo il corpo in avanti e lentamente ci alziamo. Chiediamo il permesso al corpo di utilizzarlo tutto il giorno promettendogli che noi gli faremo fare delle cose folli e partiamo con la giornata. Questa è la tipologia della persona che si sveglia un po' di scatto. Un po' come noi due, Anna Maria. Io sarei un'ottima compagna di letto per te. Allora, invece c'è chi si gira, si rigira, si stiracchia, si mette di nuovo la testa sotto il cuscino. Anche in questo caso potremmo insegnare qualche cosa. Certo, dobbiamo insegnare senz'altro che in teoria, ahimè, non è molto corretto dormire da proni, cioè con la pancia in giù. Bisognerebbe dormire supini, quindi con il viso rivolto verso l'alto, oppure girati su un fianco, però vediamo quello che si sveglia, che naturalmente sarà riverso, proprio con il viso schiacciato nel cuscino, lentamente. Giratevi con il viso rivolto verso l'alto e fate una cosa, togliete quel cuscino da sotto la testa, ritornate in una posizione distesa allineata e piegate le gambe. A quel punto il corpo poverino che si è rivoltato tutto quanto ricomincia ad allinearsi e il primo approccio, visto che state ancora dormendo, potrà essere proprio col vostro respiro. Mettete le mani sulla pancia e inspirate sentendo che l'aria riprenda a entrare nel corpo e a uscire in una maniera dolce come è stato durante il sonno. Arrivati a questo punto, dopo che avete avuto la percezione della vostra pancia che si è alzata col respiro e si è abbassata sull'espiro, andate a richiamare gli addominali, l'abbiamo fatto tempo fa, cioè, è una cosa ricordo. Semplice. Da qua semplicemente abbassiamo, contraiamo gli addominali come se volessimo chiudere un pantalone un pochino stretto, in modo che ridiamo anche gli addominali un pochino il loro ruolo e abbiamo meno sensi di colpa e diciamo ma io faccio ginnastica quando mi sveglio. E fatto questo anche per voi, girate su un fianco, appoggiate i piedi a terra mettendovi seduti e pian pianino lentamente alzatevi e lentamente in silenzio, perché chi ha questo tipo di risveglio odia quelli che, come quelli che si svegliano di scatto, cominciano subito a parlare. Questi sono silenziosi, non vogliono sentire niente. Continuate a sentire il vostro respiro e andate. Anna Maria, vorrei anche dare una mano, un esercizio a chi, indipendentemente dall'umore, dal modo in cui si sveglia, avverte proprio un peso a livello del collo, la famosa cervicale. Ci svegliamo e siamo già tutti rotti. Sì, questa è proprio la tipologia invece delle persone che ho regolarmente in studio, che mi dicono cosa posso fare al mattino. Io ho sempre suggerito una cosa che è abbastanza semplice, che è questa: prima di alzarvi dal letto, naturalmente il cuscino è sempre consigliabile, quindi vi consiglio di girarvi su un fianco e di mettere il cuscino sotto la testa. Arrivati a questo punto non pensate al collo, dobbiamo pensare alla spalla e ai muscoli che sono inseriti alla spalla, soprattutto quelli alti che sono i trapezi, sono attaccati al collo. Per cui girati su un fianco, semplicemente con la mano appoggiata a terra, al cuscino, al materasso, create delle circonduzioni della spalla. Cosa vuol dire? Immaginate con la spalla di voler fare dei cerchi quasi a togliere la coperta dalla spalla. Sì. Prima portandole indietro, e poi facendo il contrario, riportandole in avanti. Per cui è un lavoro veramente semplice. Se portate attenzione proprio ai muscoli che sono tra l'orecchio e la spalla, vi accorgerete che sono proprio quelli del collo. Una volta fatto questo lavoro su un fianco, per riportarvi nel centro, vi riportate a pancia in su, rigirate dall'altra parte, fate la stessa cosa, la circonduzione della spalla in un senso e nel senso opposto, poi da distesi supini, diciamo che se dobbiamo quantificare il numero dei cerchietti ne sono sufficienti 5 in un senso, 5 nel senso proprio opposto. Proprio una manciata di secondi, insomma un minuto. E quello che consiglio da distesi è appoggiare le mani sulla mandibola e aprire e chiudere la mandibola come se fossimo dei pesci. Apro e chiudo. Perché? Perché può capitare che durante il sonno ci siano delle persone che digrignano i denti e questo potrebbe essere anche una causa di questo collo che è contratto. Per cui siamo andati a dare un sollievo sia ai muscoli contratti, che magari si sono contratti perché si è tenuta una postura scorretta anche del sonno, che uno dice anche la postura del sonno. Anche di notte devo controllare. Però è proprio, sì, si potrebbe. Ma quello che può accadere è proprio che si digrignino, si chiama bruxismo notturno, e in questo caso un lavoro di rilassamento, proprio un massaggio alla mandibola e aprire e chiudere la bocca per alcune volte, così non ci sono non sono coinvolti anche gli occhi, che finalmente nel sonno hanno riposato, quindi i muscoli oculomotori non possono essere causa di quel male al collo. Quindi Anna Maria, in una manciata di secondi, direi qualche minuto, una remise en forme. Sì. Dal letto siamo pronti per andare a fare la doccia. Anna Maria, grazie. Grazie a tutti voi. Buona giornata. Buona giornata. Doccia, per l'appunto, perché è la preferita di chi ha poco tempo. La doccia, perché si fa prima e ci si lava meglio. Guarda, la doccia, ma solo per motivi di tempo. Mi piacciono magari dei bagnoschiuma con delle essenze, sicuramente, però Cantichiaro cose non che mi ricordi, insomma. La doccia, perché si fa più in fretta. La doccia. Di solito quando sono di fretta torna più utile. La doccia perché è più rapida e perché cioè uno è sempre di fretta così, quindi ha meno tempo magari da star lì a rilassarsi. Il bagno ogni tanto, giusto come premio. Preferisco farmi la doccia, è perché è più veloce, sbrigativa. Poche volte, magari proprio quando sono stanca che voglio rilassarmi, allora però cioè, consideri quanta acqua va dentro in un bagno. E svegliarsi la mattina. E sotto la doccia con noi viene il professor Antonino Di Pietro, dermatologo plastico a Milano e presidente ISPLAD. Buongiorno professore. Buongiorno. Un po' troppo intimo, vero? No, tutto ciò che riguarda la pelle è intimo e quindi andiamo a nozze, direi. Allora, la doccia perché per chi ha poco tempo, la doccia perché a differenza del bagno sembra che sia anche un po' ricaricante, ma qualche trucchetto, qualche attenzione per rendere la doccia veramente più, tra virgolette, energetica e che, per soprattutto che sia una bella carezza, una coccola per la nostra pelle. Sì, certo. Ma la doccia sicuramente meglio del bagno al mattino, innanzitutto perché stando meno nell'acqua la pelle si disidrata meno, infatti il problema del lavare il corpo del bagno è che dopo ci si sente la pelle che tira. E quindi ci vuole la crema. E quindi poi ci vuole anche la crema, ecco, la doccia disidrata meno innanzitutto. È corroborante perché queste gocce che cadono sulla pelle stimolano dei recettori cutanei e inducono il rilascio di determinate sostanze nella cute vasoattive, quindi migliora anche il microcircolo e questo ci dà una sensazione di benessere dopo averla fatta. Bisogna sapere che al mattino se ci si sveglia con un po' di mal di testa, a volte perché si è dormito male o perché siamo andati a letto e non abbiamo digerito ancora tutto o perché abbiamo dormito anche poco, a volte ci si sveglia che non siamo perfettamente riposati, siamo un pochino stanchi. Allora il trucco è di fare la doccia cambiando la temperatura, quindi si entra

piccolissimi, impercettibili cambiamenti. Buongiorno alla dottoressa Paola Reverso, nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te, un'associazione che si occupa per l'appunto di benessere. Buongiorno e ribongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Iniziamo proprio dal caffè nero bollente. Molti di noi si svegliano, è proprio la prima cosa che buttano giù per iniziare la giornata. Allora, prima di tutto bisognerebbe bere un bicchiere d'acqua, assolutamente prima del caffè, e potremmo tranquillamente farlo senza occupare tempo nell'attesa che si prepara il caffè. Intanto poi, che il caffè sale, un po' di acqua, un bicchiere d'acqua scende. Acqua a temperatura ambiente, acqua gasata, acqua non gasata, acqua tiepida, come suggeriscono molte persone che mi dicono che vincono così in qualche modo quei problemi di stitichezza molto blanda che affliggono molte persone. Dottoressa. Appunto, allora, acqua a temperatura ambiente, giusto per non dare troppo dell'acqua fredda nello stomaco subito appena svegli. Acqua calda se si soffre infatti di stipsi, quindi se si hanno problemi di stitichezza. Magari in questo caso si può associare all'acqua uno o due cucchiaini di semi di lino che aiutano proprio a rendere le feci più morbide. Quindi le metto proprio dentro l'acqua tiepida, l'acqua caldina, e lo bevo? Sì, si possono mettere dentro l'acqua, si mescola e si beve, oppure si possono mangiare proprio, anche masticare, perché hanno un sapore gradevole, sanno di nocciola. Quindi, poi la scelta del caffè, quindi scegliere un caffè arabica, un 100% arabica con una tostatura leggera, un caffè quindi più aromatico, non troppo forte, e con un basso tenore di teina. Però il caffè arabica contiene proprio naturalmente meno teina, e non prendere le miscele. Comunque basta un attimo di attenzione, si legge sulle etichette se acquistiamo prodotti nella grande distribuzione, altrimenti possiamo andare in torrefazione. Ed è una cosa importante, che questo magari va a favore di chi fa una colazione frettolosa: il caffè fatto con la macchinetta del bar ha un tenore di caffeina più basso di quello con la moca. Un'altra notizia buona, quindi. Sì, infatti, a parte che adesso queste macchinette le abbiamo anche a casa. Tutti. E poi una cosa importante è mangiare, anche se non ne abbiamo voglia, ci si abitua piano piano, magari prima con piccole quantità, piccole porzioni. Una cosa importante che non facciamo, soprattutto in inverno, magari in estate ci viene più voglia, è consumare della frutta fresca. Quindi questo dovrebbe essere fatto prima del caffè, quindi acqua, poi frutta. Si può optare per una spremuta se si hanno quei 10 minuti in più, oppure per dei succhi di frutta. Per la donna che soffre di ritenzione idrica, magari può scegliere un succo d'arancia non zuccherato. In questo caso magari si può rinunciare qualche volta al caffè, che non è molto favorevole per la ritenzione idrica, e optare per degli infusi di betulla, infusi di uvorsina, berne magari uno o due tazze, perché ricordiamoci che la ritenzione idrica si combatte bevendo, e più si beve al mattino più ci si aiuta in questo senso. Una scelta che sarà secondo me apprezzata, più facile da seguire da chi invece del caffè preferisce iniziare la giornata con il tè. Quindi lei suggerisce, oltre al tè, ma daremo anche delle indicazioni, di alternare magari con queste tisane, e mi ha detto tisane di? Infuse di betulla e uvorsina, proprio messe proprio insieme. Si possono comprare queste erbe sfuse nelle erboristerie, e ci si fa proprio fare una miscela col 50% di betulla e 50% di uvorsina. Tra l'altro, un infuso di questo genere aiuta molto quando si soffre di cistite. La donna spesso purtroppo ne soffre, sia in estate che in inverno, e questo aiuta tantissimo. Poi un'altra cosa che possiamo fare, ma qui occorre sempre un po' di tempo in più, e di solito si preferisce farlo in estate perché si ha piacere di prendere una bevanda più fresca, sì, è fare dei frullati. Il frullato ci chiede già troppo, aspettiamo quest'estate, perché noi, dottoressa, sappiamo che la frutta è importante, accontentiamoci per adesso, noi siamo proprio piccoli cambiamenti, il frullato bisogna già aprire e mettere. Per chi non è abituato, questo è già un passo troppo audace. Quindi invece per chi vuole il sapore proprio del tè, ha delle indicazioni come ci ha dato per il caffè? Allora, intanto possiamo scegliere un tè verde, perché è più ricco di antiossidanti, questo lo sappiamo tutti. Sì. Però il tè verde contiene altrettanta teina del tè nero, non è che ce n'è di meno, anzi, a volte in certe qualità per esempio i tavernari cinesi hanno una percentuale di tina piuttosto elevata, però possiamo stare su dei tè giapponesi, sì, come il Sencha o il Bancha, che hanno una quantità di teina un pochino più bassa. C'è una qualità di tè che è si chiama Kukicha, è un tè giapponese che è naturalmente privo di teina semplicemente perché viene fatto con i bastoncini del tè, la parte appena al di sotto della fogliolina, ed è molto aromatico, molto piacevole. E possiamo tenerlo anche per tutta la giornata? Possiamo sorseggiarlo durante la giornata? Spesso noi d'inverno dimentichiamo di bere perché sentiamo meno la sete, e invece idratare il nostro organismo è sicuramente una cosa importante per il nostro benessere. Dottoressa Reverso, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie Nicolette, buona giornata a tutti. E adesso noi torniamo indietro se fossimo, cioè, visualizzando casa mia, perché io tornerei indietro al bagno, meglio al lavandino del bagno, davanti allo specchio. Ma dopo quanto tempo è giusto? Quanto tempo devo far passare prima di prendere, afferrare lo spazzolino e lavarmi i denti? Lo chiedo al mio amico Alessandro Pellizzari, che è qui in studio con me. Ciao Alessandro. Ciao Nicoletta. Vice caporedattore di Star Bene, che è molto preparato, perché non solo perché grazie i denti agli si lava, di Star Bene. Non solo perché i denti si lava tutte le mattine più di una volta al giorno. Quante volte? Ah, ma è un interrogatorio. Sì. Ma io, come sai, seguo pedissequamente i consigli degli esperti. Allora, subito finisco a colazione e mi butto a lavarmi i denti, o posso farmi un giretto per casa, magari a lavarmi, non so, leggo una notiziola sul giornale, sento Radio 24. Ma mi lavo i denti sentendo Radio 24. Ok, adesso noi andiamo invece a sentire la viabilità e poi torniamo insieme. Siamo in bagno, vicino, davanti allo specchio, abbiamo il lavandino, afferriamo lo spazzolino, manuale o elettrico? A tra poco. Essere e benessere. Di denti, gengive, sorriso parla anche il numero in edicola di Star Bene. In edicola da oggi. Esatto. Parliamo soprattutto di gengive perché pensiamo sempre allo smalto, alla parte diciamo più estetica. In realtà in Italia occasionalmente o cronicamente il 70% di noi ha problemi di gengive, dalle semplici infiammazioni fino alla malattia parodontale, che è meglio conosciuta come piorrea. E lo abbiamo fatto grazie al nostro esperto, alla consulenza del professor Luca Francetti. Che è in linea con noi. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Presidente della Società Italiana di Parodontologia. Professore, quanto tempo dobbiamo dedicare alla pulizia, al lavaggio, allo spazzolamento dei nostri denti? Siamo di mattina, davanti allo specchio, abbiamo fatto colazione. È sufficiente dedicare un tempo compreso tra i 3 e i 5 minuti d'orologio due volte al giorno, la mattina e la sera, come ultima manovra prima di andare a dormire. La sera è importante utilizzare anche gli strumenti per l'igiene orale interdentale, vale a dire il filo interdentale o lo scovolino, qualora gli spazi interdentali fossero un pochettino allargati. Quindi lei mi fa risparmiare tempo in questa mattina di corsa, perché mi lascia usare, mi suggerisce di usare il filo interdentale la sera, quando sì, abbiamo più tempo. Assolutamente. Sui sì. 5 minuti di spazzolamento io dico che non riesco, ne bastano 3, posso, se ne faccio 3, vado bene? Assolutamente sì, mi riferivo ai 3-5 perché pensavo ai 2 minuti aggiuntivi, minuto e mezzo, 2 aggiuntivi, necessari a passare il filo la sera. Ah, ecco, no, ero già più tranquilla, sono già più tranquilla, se no mi sentivo in colpa, Alessandro. Però un bell'assist, perché già si sa che gli italiani usano poco il filo interdentale, adesso col fatto che alla sera è meglio, insomma, ci fa veramente guadagnare tempo. Molti non lo usano, professore, perché dicono, ma lo uso e poi mi sanguinano le gengive. Questo è un segno di sofferenza delle gengive, o siamo noi che abbiamo la mano troppo forte, passiamo il filo nel modo sbagliato, così ci insegna a passarlo nel modo giusto nel caso. Può essere l'uno o l'altro, nel senso che chiaramente il filo interdentale deve essere utilizzato in modo corretto e quindi dovrebbe essere l'odontoiatro, l'igienista dentale a spiegare al paziente come usarlo correttamente. Me lo faccia lei che è in linea. È difficile senza illustrarlo, però intanto il filo per utilizzare il filo interdentale dobbiamo prendere un pezzettino abbastanza lungo, diciamo 50-60 cm, avvolgerlo sulle dita medie delle due mani e poi utilizzando il pollice e l'indice per l'arcata superiore e i due indici per l'arcata inferiore, farlo scorrere delicatamente con un movimento avanti e indietro a livello del punto di contatto dove si toccano i denti, oltrepassare questo punto in direzione della gengiva, quindi abbracciare il dente e far scorrere il filo verso l'alto nell'arcata inferiore e verso il basso nell'arcata superiore. È stato molto bravo, l'abbiamo capito. E adesso da stasera, perché abbiamo tempo per farlo stasera, ci eserciteremo. Grazie professor Francetti per essere stato con noi. Ulteriori dettagli, come si dice, li trovate sul numero in edicola di Starbene. Con il focus sulle gengive e anche sull'igiene. Molto importante. E adesso noi siamo pronti, ci vestiamo in fretta e furia. Possiamo anche utilizzare, no, il giochino di... combinare gli accessori, ne sì. Parlate proprio anche nel numero in edicola. Ci siamo divertiti proprio a usare i bijou, ad abbinare bijou, collane e anelli ai vestiti che avete in casa. Sì, avete, infatti, perché era questo noi. Era un po' voi noi. Poi le elettrici di Starbene, ma non dimenticatevi, adesso siamo pronti, manca un dettaglio fondamentale. C'è un sorriso d'amore e c'è un sorriso della seduzione. C'è un sorriso dei sorrisi dove si incontrano quei due sorrisi. C'è un aggrottamento dell'odio e c'è un aggrottamento del disdegno. Ed un aggrottamento c'è degli aggrottamenti, di cui invano cercate di scordarvi. Quando è sorriso, a fine ogni miseria. William Blake. Sì, ricordatevi il sorriso, vi fa bene, ci fa bene. Il mio motto è sorridere e camminare. Io trovo che siano queste proprio due piccole cose che mi aiutano molto perché le ho sempre a disposizione. Saluto l'amico Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Da Napoli un sorriso. Speriamo di sì. A chiusura di questa puntata io vorrei proprio aiutare con i suoi consigli i miei ascoltatori a credere in questo che consideriamo un dettaglio, qualcosa in più, ma che ci cambia la giornata e cambia anche il rapporto che abbiamo con gli altri e quindi ci torna. Ci cambia la giornata e ci migliora il rapporto a condizione che sia un sorriso sincero. E che quindi che sia un sorriso che implica uno sguardo, che implica un tener presente l'altra persona e che implica un essere contenti di incontrare quell'altra persona col nostro sguardo. A volte di sorridere non ne abbiamo tanta voglia, ci alziamo con il piede, la luna storta, il piede sbagliato, ci si sforza o si aspetta? Ma forse possiamo fare una piccolissima riflessione su quei pensieri automatici che a volte ci vengono in mente nel pre-risveglio e continuano durante i primi minuti in cui siamo svegli e nei quali siamo sopraffatti da preoccupazioni che sconvolgono la nostra tranquillità del sonno. C'è una bellissima battuta di Woody Allen che diceva mi sono svegliato stamattina e per i primi 5 minuti stavo benissimo, poi mi sono ricordato di essere io. A volte ricordarci di essere noi stessi deve essere supportato da un pensiero volontario che tutto sommato questa nuova giornata che abbiamo davanti potrà non essere sopraffatta dalle preoccupazioni e potrà essere utilizzata per fare delle buone cose e comunque abbiamo qualcuno a cui sorridere. Dobbiamo cercarlo. Non siamo tanto soli. Questo è vero. Dobbiamo cercarlo, facciamo un po' di prove, di esercitazioni, iniziando a sorridere alle persone che ci vogliono bene, per chi non è singole, quindi per chi non vive da solo, i figli, il partner, spesso abbiamo dei saluti affrettati. Io vorrei invece insistere che questi sono proprio la palestra del nostro umore e del nostro buon umore. Professore. E se siamo anche soli possiamo sorridere a noi stessi, nel senso che nel momento in cui apriamo una giornata, tutti noi ci manteniamo su dei rituali che ci aiutano a riprendere contatto attivo con la realtà esterna e appunto, come dicevo prima, il nemico sono quei pensieri automatici che a volte possono essere di preoccupazione o di eccessivo allarme Quello che possiamo fare è abituarci a mantenere una cosiddetta mastery, una padronanza anche sui nostri pensieri automatici, e a riflettere sui lati positivi della giornata che potremo avere davanti, senza necessariamente sottovalutare le inevitabili difficoltà che avremo. Questo ci può confortare molto. Lei lo mette in pratica ogni giorno? Ci provo, anche se come tutti noi possiamo essere sensibili a diversi fattori sull'umore al risveglio, i sogni che abbiamo fatto subito prima di risvegliarci, se abbiamo dormito con qualcuno, se abbiamo dormito da soli e se questo ci piace o non ci piace, a volte anche il tempo atmosferico che ha un'influenza su molte persone per il tono dell'umore, ma l'importante è come sempre la consapevolezza che possiamo esercitare controllo, anche se piccolo, sul nostro umore e che possiamo deliberatamente orientare il nostro pensiero per selezionare delle parti emotive di noi che ci spingono a utilizzare quella giornata che abbiamo davanti. Grazie dottor Aquilar per essere stato con noi, mi ha messo il buon umore. Bene, ce la possiamo fare. Buona giornata. Buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori. E a chiusura di questa puntata spero che a qualcuno di voi sia sorta una domanda: perché non faccio le cose che mi fanno bene? Le abbiamo viste, sono molto semplici. Una possibile risposta la trovate nel libro che porta proprio questo titolo ed edito da Corbaccio, Perché non faccio le cose che mi fanno bene. Per stare bene, per stare meglio, tornate a trovarmi domani alle 11. E intanto saluto Alessandro Pellizzari, vi ricordo il numero in edicola per denti, gengive, ma anche per gli accessori e anche per le labbra. Il trucco per quelle sotto. Labbra, prova di bacio, tra poco è San Valentino, ci portiamo avanti. Grazie ad Alessandro Pellizzari, grazie a voi, a domani.